alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. Decima puntata. Di nuovo il barcone dei soldati spagnoli si trovò a procedere di fianco a noi. «Con tutto il mare che c'è, proprio alle costole li dobbiamo avere», borbottò Colangelo. «Ma di che ti lamenti? Non danno nessun fastidio», disse Assunta. «A te forse», rispose Colangelo. «A me ne danno, perché non sanno remare. Guarda, se non sto attento io mi vengono a sbattere addosso». Passarono vicinissimi, infatti. Credo che fosse l'ufficiale spagnolo a dare la direzione per potermi guardare con suo comodo. Io cedevo ogni tanto a ricambiare lo sguardo e ogni tanto resistevo mettendomi a fissare le torri lontane di Otranto, illuminate di rosso dall'ultimo sole. Era un gioco a sorpresa. Ancora guardavo lui e poi guardavo la lunga fila delle barche e il mare, dove i santi passeggiavano fra gli uomini e tutti, quanti si conoscevano e quanti non si conoscevano, parevano amici. Il cammino del ritorno fu lungo, ostacolato dal vento della sera che soffiava in direzione contraria di quello pomeridiano. Quando Mastro Natale a intervalli ordinava «Batti a destra» oppure «Remi a sinistra», la sua parola risuonava chiara e ferma, scesa da un'altezza superiore a quella del vecchio corpo in piedi sulle assi di poppa. D'un tratto desiderai che la processione fosse terminata, passata da anni, e per questo, quando la gente scese dalle barche, il porto fu pieno di gentiluomini e di dame, di stendardi e di colori come una favola, io lasciai tutti e me ne andai veloce verso il Borgo Vecchio. Giunta a casa sbattei la porta, aprii il cassone, ci misi la veste della festa e lo richiusi. Fui con il grembiule nero di tutti i giorni, nel qual momento prese giusto a suonare la campana dell'Ave Maria, sicché mi fermai ai piedi del letto, ascoltando il suono della campana che si perdeva poco a poco nell'aria. Passato sulle foglie dell'orto, scendeva verso il mare, cullandosi nella buon'aria con una nota triste, seguita da un trillo chiaro. Qualcosa era successo dentro di me, ma non sapevo cosa. Antonio tornò a notte alta dall'osteria, fantastico per il vino della festa. Allargò le braccia e subito volle fare l'amore. Poi caddi addormentata. Quando al mattino mi svegliai e Antonio era già uscito a mettere le lenze, mi rizzai a sedere sul letto. «Questa vita non va», pensai. «Devo fare qualcosa. Forse devo lavorare di più». Alzatami, cominciai con quel pensiero a sbrigare le faccende. Stavo attingendo acqua dalla cisterna quando l'idea mi venne. «I ricami!» esclamai fra me. Il secchio dell'acqua restò sul muretto e io mi sedetti in terra ai piedi della cisterna. «Ecco qua, tele fini appunto ad ago, come le donne della strada grande. Le vendo per i corredi e aiuto Antonio a fare soldi». L'idea mi piacque. Quando ero ragazzina, mia sorella mi aveva mandato da una delle donne della strada grande a imparare traforo. Sapevo fare ometto, pupa, stella e maccaroncino. Mi diedi quel giorno stesso alle compere e l'indomani ero già seduta nel cortile a tirare i fili alla tela per orli e trafori. Il lavoro del ricamo lasciava molto tempo per fantasticare. L'ago continuava ad andare avanti e indietro sullo stesso pezzo di tela e fu appunto durante uno di quegli avanti e indietro dell'ago che io rividi nella mente l'ufficiale spagnolo a prua del barcone militare intento a fissarmi. Ricordo, fu quella la prima volta che pensai a lui. Durò un attimo, non di più, e nemmeno ci feci tanto caso. Passarono 2 mesi di lavoro continuato e guadagnai i primi soldi. «Eccoli», dicevo guardandomeli in mano. «I soldi? Tanti di questi e tutto cambierà». Corsi al porto come una barca a vele spiegate. Antonio si preparava a partire per la pesca. «Ho venduto i ricami!» gli gridai dal molo e lui mi fece un segno festoso col braccio. «Torno a notte!» rispose. Ricambiai il saluto e presi la via del ritorno, ma non avevo fatto 20 passi che corsi di nuovo indietro, sul molo, e gli mostrai da lontano i soldi. «Compro nuova tela!» gridai. Lui fece segno di sì mentre slegava dall'ormeggio la barca. Mi avviai, ma dopo pochi passi corsi da capo al molo. «Mi comperò anche una veste!» gli gridai. Lui mi guardò a lungo questa volta e sorrise. «Allora ho capito», disse. «Li spendi tutti nella veste». Fu così, purtroppo. Nel negozio c'erano tante stoffe, ma una tessuta a fiori così bella che, come la vidi, di colpo immaginai una sopravveste meravigliosa, spaccata dal busto in giù per dare ala alla gonna, e l'immaginazione cacciò tutti gli altri pensieri dalla mia testa. Con gli occhi su quel broccatello io ero felice. Ma mia sorella, quando lo vide, sembrò perdere la ragione. Si mise a gridare che la sentirono dalla strada e accorsero le vicine. «Ma guardate!» diceva, guardate questa pazza, un broccatello da grandama, e Antonio non dorme per lavorare. Le donne tastavano la seta e scuotevano il capo, corrucciate. Solo Antonio, quando arrivò, prese le mie difese. Disse che io vivevo in un mondo mio e non ero ancora entrata nella vita vera, ma che poi un giorno ci sarei entrata e mi sarebbe stato più facile vivere. Quella sera a letto non riuscivo a dormire. Ero contrariata con me e mi davo della stupida per quello che avevo fatto. Antonio taceva e non si muoveva. Dormisse già, pensai, guardando ad occhi spalancati il buio della notte. Avevo il cervello sottosopra ed un tratto da quel disordine della testa venne fuori l'ufficiale spagnolo. Era la seconda volta che mi ricordavo di lui. Questa volta il pensiero ci restò. Non sapevo proprio nulla di quell'uomo, tuttavia, così come l'avevo visto, pareva l'opposto di Antonio, bello, elegante, con maniere da signore e insieme una certa aria di frivolezza. Cercai di pensare ad altro, ma chissà perché quella notte non mi veniva in mente niente altro, mi veniva solo di pensare all'ufficiale. Del resto, chi lo avrebbe mai più incontrato? Era come entrare nel campo delle favole, dove uno può andare innanzi quanto gli pare. «Idrusa», disse a un tratto Antonio. «Non dormi?» domandai stupita. «Sì, ora dormo. Volevo dire...» Si interruppe, riprese. «Senti, Idrusa, qualunque cosa ti passa nell'anima, tu sai che Dio è lì a vederla. Ma non hai paura di questo, non hai vergogna, no? Perché è naturale che Dio veda tutto.» «Eh sì», io risposi, «è naturale. Quando una donna è sposata», disse, «non c'è più solo Dio sulla terra a vedere quello che le passa nell'anima, c'è anche il marito. E lei non deve avere né paura né vergogna, deve dire tutto come fa con Dio. È giusto o no? Tu come la pensi?» «Che è giusto.» «Bene», disse Antonio, «e ora possiamo dormire, è tardi.» Un giorno, all'ora del vespro, mentre il sole calando nelle acque illuminava ormai solo le cime dei palazzi e i pescatori al porto tiravano in secco le barche sull'acciottolato, vi disponevano dentro con ordine le corde, gli umili, la lanterna, io attraversavo la piazza della cattedrale, lieta di camminare, veloce e sola, fra i grandi palazzi, quando a pochi passi da me vedi l'ufficiale spagnolo, fermo, con due signori davanti al portone della casa del governatore. A quella vista mi inchiodai sul lastricato della piazza. L'ufficiale mi guardò, prima distrattamente, poi con più attenzione. Pareva volesse farsi venire in mente qualcosa e non sapesse che cosa. D'un tratto trovò, sorrise e, abbandonando il posto e la compagnia, mi venne incontro. «Buon vespro», disse con molta gentilezza. «Buon vespro», io balbettai e mi trovai dentro il mondo dei suoi occhi bruni, un mondo meraviglioso. Per parte mia non avrei più aperto bocca. «Non vi ho visto dopo la festa. Abitate a Otranto?» Mi passava gli occhi su tutto il corpo, dalla testa ai piedi, sicché mi sentivo piena di emozione e di vergogna. In quella, con la mazzapinta che attraversava la piazza, venne a camminare di fianco a noi per un momento, durante il quale non smise di fissarci con la faccia aggrottata. Per di più, giunto all'estremo della piazza, si voltò e mi fece un segno di domanda con la mano, come dicesse «Ma che diavolo fai? e scomparve. «Allora, dove abitate?» lui insisté. «Al Borgo Vecchio, nella via dei Pescatori». «Siete sposata?» «Sì», risposi. Gli faceva effetto la notizia? No, non parve. Parlava tranquillo, sorridendo. «Lavorate?» «Ricamo tele», risposi. «Ricamate tele», ripeté. «Quei bei ricami con disegni di omini e di stelle». Feci sì col capo. «Ma chi vi insegna quei bei disegni?» «Li hanno portati da oltre il mare», risposi, «tanto tempo fa». «Mi piacciono. È uso antico». Non avevo mai pensato che fossero tanto belli i nostri disegni e anche al momento non riuscivo a fermarmi nell'idea. Mi era venuta una grande voglia di andarmene. Dissi «Buon vespro», ma in quella lui mi prese tutte e due le mani alla maniera dei piccoli che giocano al girotondo e le strinse fra le sue. Avevo paura. Sarebbe stato semplice, no? Ritirare subito le mie mani dalle sue e dargli una giusta lezione, ma le cose semplici non si fanno con tanta facilità. Alla fine mi precipitai nel vicolo del crismatico e con il cuore in gola arrivai a casa. L'indomani, nella chiara e fresca mattina, provai molto stupore riguardo all'incontro della sera. Rivedendo lui che mi stringeva le mani nelle sue, ne dubitavo nella mia mente al punto che non mi pareva più che fosse un fatto vero. Passai la mattina a ricamare. Antonio era partito all'alba per la pesca e fino a notte non lo si sarebbe visto spuntare nella via. Al vespro mi sedetti a ricamare sui gradini di casa. Tutte le donne otrantine al vespro si mettevano davanti alla porta della loro casa e lì, sulla strada, cucivano, pulivano mazzi di cicoria, aggiustavano reti chiacchierando da un lato all'altro della via in attesa che suonasse l'ora del rosario. Ogni donna nella nostra strada faceva le stesse cose e anche quando all'imbrunire tutte entravano in casa, quello che faceva una era uguale a quello che faceva l'altra, come un'onda è uguale a un'altra onda. Questo fatto mi veniva a noia certe volte. Quando iniziavano a pulire la cicoria, il tufo delle case era grigio con qualche vena del celeste, ma entro una mezz'ora cambiava colore e all'inizio del rosario era azzurro scuro. Pochi minuti dopo che eravamo entrate in casa si faceva bluastro come la notte. Quel giorno al vespro, mentre io ricamavo, essendo il sole ormai vicino al tramonto, i bordi alti delle case erano più chiari delle facciate e si vedeva la luce muoversi dentro l'aria. Le donne facevano le loro cose e discorrevano, quando d'improvviso si udirono per la discesa del vicolo che tagliava la nostra strada dei passi di piedi calzati. Le donne tacquero e voltarono la testa tutte nella stessa direzione. Sulla strada era comparso l'ufficiale spagnolo. Camminava lentamente, sicché nel silenzio generale si sentiva il battere sul lastricato delle scarpette a punta lunga. I suoi occhi invece passavano svelti sulle donne, sui piccini, sulle cicorie, come quelli di un passero quando saltella sopra un prato. Le donne presero a fissarlo, ostinate e zitte. Addolorata, rimasta immobile così com'era, curva con le mani nel secchio, assunta in piedi con un mazzo di cicoria in una mano e il coltello nell'altra. Filomena, la moglie di Mastro Natale, le dita abbandonate sulle reti, tutta una fila di occhi fissi e nemici. Un gatto trottò sulla strada col collo teso e il muso che odorava da una certa distanza il lastricato. Lui avanzava lentamente a passi uguali con due dita infilate nella correggia da cui pendeva a destra la spada e a sinistra una borsa di seta. Qualche piccino gli andava dietro a distanza. «Cercasse me», pensai. La sua gonnella chiara di seta stretta in vita dalla correggia si allargava in fondo alla maniera di una campanula, raccogliendo l'ultima luce fra le due file nere di donne. Giunto davanti a me, si fermò, chinò poco poco il capo nel saluto e mi guardò fisso senza una parola, ma parlavano gli occhi. Qualche minuto dopo riprese a camminare con il passo indolente dei signori e subito scomparve, poiché la mia casa era l'ultima della strada dei pescatori. Allora tutte le donne guardarono me. Continuavano a guardarmi, zitte, il che era un modo nuovo di fare. Sempre, qualunque cosa accadesse nella strada, una delle anziane avviava la conversazione e tutte le altre la continuavano fitta. Questa di solito andava avanti fino a notte, perché ogni tanto prendeva tutte la voglia di infiammare con i discorsi la cosa per ricominciare da capo a parlarne. quella sera no. Io gettavo occhiate ora all'una ora all'altra, ma ero isolata, sola e piena di agitazione. A poco ripresero a lavare, a pulire cicoria, ad aggiustare reti, in silenzio. Mentre l'ultima luce saliva al di là dei tetti verso il volo degli uccelli, passò uno stormo di cornacchie, frettoloso, diretto alle rocce alte. Gracchiavano dalle loro anime erranti. Il fondo della strada e noi scendevamo verso l'ombra blu. «Chissà che vuole quello», dissi a voce alta. Nessuno rispose. Aggiunsi: «E voi che ne pensate?» «A me fa antipatia», disse addolorata la madre di Antonello. Da capo silenzio. Le donne erano pensierose. «Quello non è un cristiano», disse a un tratto addolorata. «È un falco che vola in cerca di pollastrelle». «Di che falco stai parlando?» Antonello arrivava in quel momento dalla pesca, depose le reti davanti alla porta e ci guardò. «Pensieri nostri di donne», rispose secca la madre. Antonello restò un momento davanti alla porta della sua casa a guardarci. «Avete tutte una faccia curiosa», disse. «Come ve la siete fatta poi?» E senza aspettare risposta entrò in casa. Al suono dell'Ave Maria facemmo il segno della croce e sedemmo nella penombra ai nostri posti. La moglie di Mastro Natale, Filomena, cominciò a recitare a voce alta il rosario e noi a rispondere in coro. Ma io, mentre dicevo la Santa Maria Mater Dei, vedevo davanti a me la gonnella dell'ufficiale, tanto fine di stoffa che non si poteva neanche dirne il colore. Mi domandavo di che colore fosse precisamente, vista alla luce del sole. Il vespro seguente, le donne erano tutte al loro posto con l'aria di attendere uno spettacolo. Cucivano, sì, pelavano pomodori, lavavano la cicoria nei secchi come tutte le altre sere, ma aspettavano. Di tanto in tanto una alzava la testa e guardava attorno. Io ricamavo al mio posto, preparavo un traforino. Alla stessa ora, come se l'orario fosse convenuto, l'ufficiale comparve. Indossava questa volta un mantello di seta che faceva forte contrasto con la nostra strada malandata e piena di macchie dell'umido marino. Appena comparve, tutte le donne abbassarono la testa, ma subito la sollevarono e buttarono fuori lo sprezzo proprio nell'atto che gli guardavano il mantello di seta. L'ufficiale avanzava e dapprima si godeva la scena, poi si seccò e prese a fissare un punto ancora lontano, che era la mia porta di casa. Mi colpì la sua maniera di muoversi, che non può esserci nei pescatori, i quali non camminano mai così per camminare. Giunto davanti a me, non si accontentò di guardarmi come la sera prima. Disse: «Buon vespro e buon lavoro», con un bell'accento da persona forestiera. Quando se ne fu andato, Filomena, che sedeva proprio di rimpetto alla mia porta e aggiustava reti, posò le reti sul gradino di casa. Ci mise sopra il gomitolo di cotone, fissò l'ago al gomitolo e, incrociate le mani in grembo, disse: «Ancora non sai che vuole quello?» Le donne mi fissavano. «Basta che io non gli dia retta e tutto è finito», risposi. «Ma scusa», disse addolorata, «se non avevi in mente di dargli retta, si può sapere perché l'hai fatto venire fin qui?» «Io non l'ho fatto venire», gridai indignata. «È venuto lui! Aspettalo un signorino spagnolo che per niente fa la salita del Borgo Vecchio», ribatté addolorata. Vi fu una pausa di silenzio. «Quelli hanno il cuore pieno di inquietudine», disse Filomena. «Chiamala inquietudine», rispose addolorata, che sapeva sui signori di Otranto tutto quello che si poteva saperne. «Mettete Don Vincenzo de Rao, per esempio. Dicevano: è un gran signore, è un signore di buon volere, ma si prendeva tutte le donne dei suoi fondi». Tacque. Riprese: «E se erano sposate, era sollecito a dire al marito: sella i cavalli che facciamo quattro passi, lo portava a una bella festa, gli offriva da bere». «A una festa dove?» domandò Margherita. «E che so, in qualche paese ce n'è sempre feste dei santi. Poi gli diceva: tieni, ti regalo cavallo e bardamenti e quello che poteva fare, il tapino». «Questo è spagnolo», disse Filomena. «È peggio. Dorotea mia», si svegliò la moglie di Alfio da Faggiano, «era bella quando era ragazza, aveva solo una gamba un po' più corta dell'altra, perché una notte una strega entrò per il buco della chiave, le mise addosso un febbrone e gliel'accorciò. Dovevate vedere come piaceva al figlio di Don Vincenzo. I figli, si capisce, in queste cose prendono dai padri. E allora io, sapete che ho fatto?» «Che hai fatto?» domandò Margherita. Gli ho fatto parlare dal canonico De Pasca e lui, sapete che ha risposto al canonico? Ha risposto: che volete, padre? Siamo tutti peccatori. E il canonico? Domandò Margherita. La moglie di Alfio taceva. Che gli ha risposto allora? Insiste Margherita. Ma gli ha raccomandato di pregare per la salvezza della sua anima, disse sospirando la moglie di Alfio. Poi, quando il figlio di Don Vincenzo ha salutato il canonico e se n'è andato, io mi sono messa a dire: e come, monsignore, non lo potevate rimproverare? Ma lui mi ha detto che c'erano pochi rimedi o nessuno, se non quello della preghiera. Nella foga dei discorsi s'erano tutte portate in mezzo alla strada e la riempivano di parole. Così va meglio, pensai fra me. Poi le mandai al diavolo ed entrai in casa. Mi ripetevo: basta che io non lo guardi e tutto è finito, basta che io gli volti le spalle quando passa o addirittura me ne entri in casa e tutto è fatto. Misi fuori un attimo la testa, le donne parlavano ancora, ma i discorsi si erano capovolti. Adesso ce l'avevano con le ragazze otrantine che invece di abbassare gli occhi guardavano in faccia i signori e cascavano di vezzi. Appena Antonio arrivò a casa, gli dissi a precipizio: Antonio, c'è un ufficiale spagnolo che passa per la nostra strada al vespro, le donne dicono che passa per me. Mi guardò. E tu che dici? Che passa per me? Risposi in fretta. La faccia di Antonio si oscurò, gli tremarono le guance. Aspettavo, piena di paura. Allora mi mise tutte e due le mani sulle spalle, fissandomi negli occhi, ma non diceva nulla, non faceva che guardarmi. Dopo un poco mi lasciò le braccia e si sedette al tavolo. Alla fine disse appena: resta in casa a quell'ora e non farti più vedere sulla porta. Va bene, dissi, resterò in cucina. Del fatto non si parlò più per tutta la sera, perché ad Antonio, quando una cosa lo preoccupava, veniva una voglia furiosa di tacere. Se ne andava solo in cortile e lì si metteva a camminare avanti e indietro. Quando fu notte, nel cortile venne Mastro Natale. Sentii che Antonio gli diceva: io lo ammazzo quello. Aspetta, rispose Mastro Natale, ad ammazzarlo fai sempre in tempo. E cosa dovrei fare allora? Niente, perché non è ancora successo niente. Stare allerta, per due passeggiate non si può ammazzare uno. Valentina Carnelutti ha letto L'ora di tutti di Maria Corti, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.